Allora, conforme, diciamo, sono stata abbastanza fiera di quando l'ho trovato come titolo, perché di solito non mi capita mai di azzeccarlo, perché diciamo che era un riassunto che prendeva bene sia le tematiche che affrontò nel libro, ovvero quello della conformità corporea soprattutto, e del doversi attenere a determinati canoni imposti dalla società, sia proprio riferito proprio a un discorso che avviene durante il libro, in cui ci si ricorda un po', si fa riferimento un po' alla nostra fase, penso ce l'abbiamo avuta un po' tutti, dell'adolescenza, quando vogliamo essere diversi, anticonformisti dunque, e invece piano piano crescendo si va a perdere questa, diciamo, scintilla di diversità. Ecco, la storia si sviluppa tramite la vita delle due protagoniste, due sorelle, Nico e Marisol. Ti va di raccontarci qualcosa di più sul carattere, su insomma queste due protagoniste? Sì, allora, guarda, Nico è, diciamo, la personaggio più attiva, si può dire, forse proprio la protagonista, e era partita nella mia testa come l'antagonista, in realtà, del racconto. Poi, mettendomi io nei suoi panni, ho capito che attraverso lei avrei potuto dare una forma molto più interessante alla storia, perché appunto lei è una ragazza, come dice il titolo, conforme, che però fatica, come chiunque, a restare così fedele alle regole imposte di cui parlavamo anche prima. Però ha un carattere molto forte, molto decisa, ed è tutto il contrario invece della coprotagonista, che è la sorella Marisol, che è una ragazza che invece in queste regole non riesce fisicamente ad entrare perché non ha i presupposti, tutte quelle caratteristiche che la farebbero vivere in una maniera, secondo la società, più semplice e vivere meglio. Quindi conformarsi, mi dispiace poi reiterare sempre il titolo, ma ci sta bene. Ed è anche un carattere molto più sensibile, cosa che porterà invece Nico a provare a capirla invece che semplicemente a forzarla ad essere ciò che non è. Dentro al fumetto ci sono anche tante citazioni a serie TV, ma anche tanta musica che si ascoltano le ragazze nei loro momenti della giornata. Sono stati questi, diciamo, fonte di ispirazione anche per scrivere il fumetto? Beh, sì, diciamo che tra serie TV, sitcom soprattutto e musica è un po' il mio pane quotidiano. Io lavoro in solitaria come qualunque fumettista alla scrivania da sola e spesso di sottofondo metto musica e serie magari già viste che sono un po' la mia comfort zone. E sono anche delle cose che mi hanno ispirata poi negli anni crescendo, sono un forte motivo di riflessione per me. Tra tutte vedrete chi la leggerà, c'è la più recente Fleabag come alla più classica Scraps per quanto riguarda le serie. Farai anche un tour in giro per l'Italia? Passerai per caso per Bologna a presentare il fumetto? Mi piacerebbe in realtà un paio di amiche vorrebbero prendere dei contatti perché mi vogliono portare lì a Bologna, che non ci vengo da un pochino in effetti, e mi piacerebbe tornarci. Speriamo di riuscire a organizzare qualcosa. Allora, noi ti aspettiamo, nel frattempo ti faccio anche l'ultima domanda, perché tu hai pubblicato sempre con Bao Publishing un altro fumetto dal titolo Nina che disagio. Ti volevo chiedere come è cambiato, insomma, il tuo metodo di lavoro dallo scorso a questo, che cosa c'è di diverso anche, insomma, nella storia che racconti. Beh, allora Nina era un lavoro secondo me molto più personale, perché al contrario di Conforme, dove comunque sia ho impegnato tantissimo tempo nella ricerca, perché comunque affrontando temi più universali, non volevo assolutamente fare qualcosa di sbagliato o dire qualcosa che non potesse essere anche frainteso, mentre per Nina è più una storia personale, una storia che in qualche modo prende parecchie persone, per carità, però mi sono basata più su di me. Per Conforme invece c'è tanto, tanto di condiviso e so, di qualcosa che ho riscontrato non solo in me, nel mio percorso, ma in tante persone che conosco o che anche intravedo sui social, per dirci. Grazie mille Ilaria per averci raccontato il tuo fumetto Conforme, noi ti aspettiamo qui a Bologna. Non vedo l'ora e grazie a voi per la chiacchierata.